Ora, nella vita, non si riflette mai sul fatto che coloro ai quali offriamo del denaro o che minacciamo di morte hanno forse un amante o più semplicemente un amico alla cui stima possono tenere anche quando non tengano alla propria. Ma tutto a un tratto, con una confusione di cui non m'accorsi, giacché non pensai che Albertine, essendo maggiorenne, poteva abitare in casa mia e addirittura essere la mia amante, mi sembrò che la sottrazione di minore potesse applicarsi anche ad Albertine. La vita mi parve allora sbarrata da ogni lato. E pensando che con lei non avevo vissuto castamente, nella punizione che mi veniva inflitta per aver cullato una bambina sconosciuta, scorsi quella relazione che esiste quasi sempre nei castighi umani e in forza della quale non si può quasi mai parlare né di condanna giusta né di errore giudiziario, ma di una specie d'armonia fra l'idea falsa che il giudice si fa d'un atto innocente e i fatti colpevoli, da lui ignorati. Ma a questo punto, pensando che il ritorno di Albertine poteva comportare per me una condanna infamante che mi avrebbe degradato ai suoi occhi e che anche a lei forse poteva cagionare un torto di cui non m'avrebbe perdonato, smisi di augurarmi quel ritorno. Ne ebbi paura. Avrei voluto telegrafarle di non tornare. E subito, sommergendo tutto il resto, mi invase il desiderio appassionato che tornasse. Presa in considerazione per un istante la possibilità di dirle che non tornasse e di vivere senza di lei, di colpo mi sentii, al contrario, pronto a sacrificare ogni viaggio, ogni piacere, ogni lavoro purché tornasse. Ah, fino a che punto il mio amore per Albertine, di cui avevo creduto di poter prevedere il destino sulla falsariga di quello che avevo avuto per Gilbert, si era sviluppato invece in perfetto contrasto con esso. Com'era impossibile per me restare senza vederla. E ad ogni sia pur minimo atto che prima fosse stato immerso nell'atmosfera felice della presenza di Albertine, mi toccava ogni volta ricominciare da capo con lo stesso dolore l'apprendistato della separazione. Poi la concorrenza delle altre forme di vita ricacciava nell'ombra il nuovo dolore e durante quei giorni che furono i primi della primavera, mentre aspettavo che Saint-Loup potesse incontrare Madame Bontemps, ebbi persino a immaginare Venezia e delle belle donne sconosciute qualche momento di piacevole calma. Come me ne accorsi subito, sentii dentro di me un terrore panico. La calma, appena assaporata, era la prima apparizione di quella grande forza intermittente che avrebbe lottato in me contro il dolore, contro l'amore, e avrebbe finito per averne ragione. Ciò che avevo pregustato e presagito solo per un istante, ma che più tardi sarebbe diventato per me uno stato permanente, era una vita in cui non avrei più potuto soffrire per Albertine, in cui non l'avrei più amata. E il mio amore, che aveva riconosciuto il solo nemico dal quale avrebbe potuto essere vinto, l'oblio, si mise a fremere, come un leone che nella gabbia dove l'hanno rinchiuso avvisti d'improvviso il serpente pitone che lo divorerà. Pensavo senza sosta ad Albertine, e Françoise, entrando in camera mia, non mi diceva mai abbastanza in fretta per abbreviare la mia angoscia: «Non ci sono lettere». Ma di tanto in tanto riuscivo, facendo passare questa o quella corrente di idee attraverso la mia pena, a rinnovare, ad aerare un poco l'atmosfera viziata del mio cuore. Ma la sera, se riuscivo ad addormentarmi, era come se il ricordo di Albertine fosse stato la medicina che m'aveva procurato il sonno e il cui effetto, cessando, m'avrebbe risvegliato. Dormendo, pensavo senza sosta ad Albertine. Era un suo sonno speciale che mi dava lei e nel quale, del resto, non sarei stato più libero che da sveglio di pensare a qualcos'altro. Il sonno, il suo ricordo, erano le due sostanze che ci fanno prendere insieme, mescolate fra loro, per dormire. Desto, d'altronde, la mia sofferenza andava aumentando di giorno in giorno, anziché diminuire. Non che l'oblio non compisse la sua opera, ma proprio così favoriva l'idealizzazione dell'immagine rimpianta e dunque l'assimilazione della mia sofferenza iniziale ad altre sofferenze analoghe che la rafforzavano. E, tuttavia, questa immagine era ancora sopportabile. Ma se di colpo pensavo alla sua camera, con il letto vuoto, al suo piano, alla sua automobile, perdevo qualsiasi forza. Chiudevo gli occhi, abbandonavo la testa sulla spalla sinistra come uno che sta per svenire. Quasi altrettanto male mi faceva il rumore delle porte, perché non era lei ad aprirle. Quando diventò possibile che Saint-Loup telegrafasse, non osai chiedere «C'è un telegramma?». Alla fine ne arrivò uno, ma si limitava a rinviare tutto dicendo «Le signore sono via per 3 giorni». Se avevo sopportato i 4 giorni già trascorsi da quando lei se n'era andata, era probabilmente perché mi ripetevo «È solo questione di tempo, prima della fine della settimana sarà qui». Ma questa ragione non impediva che per il mio cuore, per il mio corpo, l'atto da compiere fosse pur sempre quello, vivere senza di lei, tornare a casa senza trovarla, passare davanti alla porta della sua camera, di aprirla non avevo ancora il coraggio, sapendo che lei non c'era, coricarmi senza averle dato la buonanotte, ecco le cose che il mio cuore aveva dovuto fare nella loro terribile interezza, ed esattamente come se non avessi più dovuto rivedere Albertine. Ora, che le avesse già fatte 4 volte, provava che sarebbe stato capace di continuare a farle, e presto forse di questa ragione, il prossimo ritorno di Albertine, che mi aiutava a vivere, avrei smesso d'aver bisogno. Avrei potuto pensare, non tornerà più, e non di meno vivere, come già avevo fatto per 4 giorni, come un ferito che si è riabituato a camminare e butta via le stampelle. Certo, la sera, rincasando, trovavo ancora a togliermi il respiro, a soffocarmi col vuoto della solitudine, i ricordi, giustapposti in una serie interminabile di tutte le sere in cui m'aspettava Albertine. Ma trovavo ormai anche il ricordo di ieri, di avantieri e delle 2 sere precedenti, vale a dire il ricordo delle 4 sere che erano trascorse dalla partenza di Albertine e durante le quali ero rimasto senza di lei, solo. E tuttavia avevo vissuto già 4 sere che formavano una striscia di ricordi molto sottile rispetto all'altra, ma che ogni giorno che fosse trascorso avrebbe forse ispessita. Non parlerò della dichiarazione che ricevetti allora per lettera da una nipote di Madame de Guermantes che passava per la più bella fanciulla di Parigi, né del passo che fece presso di me il duca di Guermantes per conto dei genitori rassegnati, per la felicità della figlia, a quel partito tanto ineguale, a quella vera e propria mésalliance. Casi del genere, che potrebbero solleticare l'amor proprio, sono troppo dolorosi quando si ama. Si prova il desiderio, ma non si ha l'indelicatezza di farli conoscere a colei che ci giudica in modo meno favorevole e che, del resto, non muterebbe opinione nemmeno se sapesse che altre hanno di noi una ben diversa considerazione. Di quel che mi scriveva la nipote del duca, Albertine, si sarebbe soltanto spazientita. Dal momento in cui, svegliatomi, riprendevo la mia sofferenza al punto dove l'avevo lasciata prima ad addormentarmi, come un libro chiuso per un istante e che non m'avrebbe più abbandonato fino a sera, qualsiasi sensazione venisse da fuori o da dentro non poteva mai collegarsi per me che a un pensiero concernente Albertine. Suonavano? È una sua lettera. Forse è lei in persona. Se mi sentivo bene, non troppo infelice, se non ero più geloso e non provavo più risentimenti nei suoi confronti, subito avrei voluto rivederla, baciarla, passare lietamente con lei tutta la vita. Telegrafarle «venite subito» mi sembrava di colpo una cosa semplicissima, come se il mio nuovo umore avesse cambiato non soltanto il mio atteggiamento, ma anche le cose fuori di me, rendendole più facili. Se ero d'umore cupo, i miei furori contro di lei rinascevano tutti e non avevo più voglia di baciarla. Sentivo l'assoluta impossibilità che mi rendesse felice. Non volevo più che farle del male e impedirle d'appartenere ad altre. Ma il risultato di questi 2 umori opposti era identico. Bisognava che lei tornasse al più presto. E tuttavia, per quanta gioia quel ritorno potesse darmi sul momento, sentivo che ben presto si sarebbero presentate le stesse difficoltà e che la ricerca della felicità nella soddisfazione del desiderio morale era non meno ingenua della pretesa di raggiungere l'orizzonte camminando dritto davanti a sé. Più avanza il desiderio, più il vero possesso s'allontana. E così, se è possibile trovare la felicità, o perlomeno l'assenza di dolore, non è la soddisfazione del desiderio che bisogna cercare, ma la sua riduzione progressiva, la sua estinzione finale. Si cerca di vedere la persona amata. Bisognerebbe cercare di non vederla. Solo l'oblio finisce col portare l'estinzione del desiderio. E immagino che se uno scrittore emettesse verità del genere, dedicherebbe il libro in cui fossero contenute a una donna con la quale si illuderebbe così di riappacificarsi dicendole «Questo libro è tuo». E così, dopo aver detto nel libro delle verità, mentirebbe nella dedica, giacché vorrà che il libro sia di quella donna, non diversamente da come vuole che sia sua quella certa pietra che lei gli ha data e che gli sarà cara soltanto finché sarà innamorato di lei. I legami fra un essere e noi non esistono che nel nostro pensiero. L'affievolirsi della memoria li allenta e a dispetto dell'illusione di cui vorremmo essere vittime e di cui per amore, per amicizia, per cortesia, per rispetto umano, per dovere rendiamo vittime gli altri, è da soli che esistiamo. L'uomo è l'essere che non può uscire da sé, che non conosce gli altri se non in sé e se dice il contrario, mente. E che qualcuno, ammesso che qualcuno ne fosse capace, mi portasse via questo bisogno di lei, questo amore per lei, mi avrebbe fatto tanta paura da persuadermi che esso era prezioso per la mia vita. Poter ascoltare senza restarne affascinato e senza soffrirne i nomi delle stazioni da cui il treno passava per andare in Touraine mi sarebbe parso una diminuzione di me stesso. Semplicemente in fondo perché questo avrebbe provato che Albertine mi era diventata indifferente. Era bene, mi dicevo, che chiedendomi di continuo cosa Albertine potesse in quel determinato momento fare, pensare, volere, se avesse intenzione, se fosse sul punto di tornare, io tenessi aperta quella porta di comunicazione che l'amore aveva praticata in me e sentissi la vita d'un'altra irrompere attraverso le chiuse spalancate nel serbatoio che mai avrebbe voluto ridiventare stagnante. Presto, col prolungarsi del silenzio di Saint-Loup, un'ansia secondaria, l'attesa ad un telegramma, ad una telefonata di Saint-Loup, mascherò la prima, l'inquietudine del risultato, il sapere se Albertine sarebbe tornata. Spiare ogni rumore nell'attesa del telegramma m'era diventato così intollerabile che mi sembrava che il suo arrivo, che era ormai l'unica cosa alla quale pensavo, avrebbe posto fine alle mie sofferenze qualunque ne fosse stato il contenuto. Ma quando, finalmente, ricevetti un telegramma in cui Robert mi diceva che aveva visto Madame Bontemps, ma che, malgrado tutte le sue precauzioni, era stato visto da Albertine e che questo aveva mandato tutto all'aria, impazzii di rabbia e di disperazione, perché era proprio la cosa che più d'ogni altra avrei voluto evitare. Scoperto da Albertine, il viaggio di Saint-Loup mi attribuiva un interesse per lei così manifesto che non poteva non trattenerla dal tornare, e cui orrore era d'altronde tutto quanto m'era rimasto della fierezza che il mio amore aveva ai tempi di Gilbert e che aveva perduta. Ma le dicevo Robert. E poi mi dissi che se quel mezzo era fallito, ne avrei usato un altro. Dato che l'uomo può agire sul mondo esterno, com'era possibile che, mobilitando l'astuzia, l'intelligenza, l'interesse, l'affetto, io non riuscissi a sopprimere quella cosa atroce, l'assenza di Albertine? Si crede di poter cambiare le cose intorno a sé secondo il proprio desiderio. Lo si crede perché non si vedono soluzioni favorevoli all'infuori di questa. Non si pensa a quella che si realizza più spesso e che è altrettanto favorevole. Non riusciamo a cambiare le cose secondo il nostro desiderio, ma a poco il nostro desiderio cambia. La situazione che speravamo di cambiare perché ci era insopportabile ci diventa indifferente. Non abbiamo potuto superare l'ostacolo come assolutamente volevamo, ma la vita ce l'ha fatto aggirare, oltrepassare, ed è un miracolo se, tornando a volgerci verso la lontananza del passato, riusciamo ancora a scorgerlo, tanto impercettibile si è fatto.